Il film fu un disastro. C'erano lunghi piani sequenza sui nonni dello sposo che dormono in chiesa. E poi miriadi di dettagli. Dettagli di mani, orecchini, pasticcini, antipasti, il tutto con una musica malinconica sotto che lo faceva sembrare un dramma più che un giorno di festa. Io ho provato a spiegare che quello era semplicemente un taglio registico, però non è servito a nulla. Qualche giorno dopo averglielo consegnato, Christian è venuto a casa mia e con grande serenità mi ha detto che era proprio brutto. Cioè, quello che io credevo fossero delle riprese artistiche, in realtà erano semplicemente delle vaccate, fatte da uno che non è capace, ma che crede di esserlo. Ammetto, è stato doloroso, però è servito. E credo che dovrebbero esserci in giro molti più Christian, che in nome dell'amicizia dicono ai loro amici: guarda, non sei capace, lascia stare. Forse ci sarebbero meno persone frustrate e più spazio per le belle cose.